avanti fino a su, è un casino. Però non ti credere, no, ce la salgo telescopicamente, ce la salgo, li mettiamo due staffe con i tirafondi, sono due staffe belle amprose, che le ho già comprate, ho tutto per piazzarle. Ma non sai come la puoi salire anche quella lì, Natali? Si salda una carrucola in cima al palo, fai tipo un carrello e la porti su così. Quando ne hai farà, abbassi un cannavo e si abbassa. Quando ti pare di piatti, la abbassi e la tagliando voi. E tu vuoi rimanere lì. Non lo so come vuoi fare. Un tubo fisso devi lasciare, no? Lasci un tubo fisso, in cima del tubo le saldi una carrucola con una corda e poi dentro il tubo le saldi un tubo leggermente più largo, in modo che scorre, capito? E la puoi salire tranquillamente, visto che tu hai quel problema. Ho capito, ma ci metto quelle due staffe e ce la salgo col palo telescopico. Tanto l'antenna è leggera, leggera, mi. In vetroresina, tipo canna da pesca rimane. Sì, già la conosco l'antenna. E vabbè, allora salirà così, dai. La sali telescopica così e va bene lo stesso. Il palo da 4 metri ce l'ho già, che l'ho comprato nuovo. 4 metri e poi te ne basta un altro così, devi mettere dentro questo da 4 metri. No, ci infilo, ne tolgo quel pezzo che c'è da questo palo, il pezzo dove c'è attaccata l'antenna, e ci metto quello da 4 metri dentro. E dico, e ti basta poi a superare il palazzo, là, diciamo quello laterale. Sì. E allora gli andava a voglia. Praticamente ti metto un tubo d'acqua, Massimiliano, da un pollice. Va bene allora. Tanto non è che stai tutti i giorni salendo e scendendo, va benissimo, io ho voglia. Metti quel palo lì e una verga d'acqua e va benissimo. Va bene, sì. Gli attacco anche due tiranti per non andare né a destra né a sinistra. C'ho anche quelli, c'ho tutto pronto per piazzarlo. La prima cosa che facciamo è piazzare le staffe e poi ci organizziamo e piazziamo l'antenna. Kappa, andiamo bene. Che prendi, Tore, ancora ci sei? Sì, ma ne approfitto per farmi andare sul 23 a vedere se c'è Gio Maria. Ok, dai, ci sentiamo, Massimiliano, alle prossime. Ciao Natalia, ciao Franco, stammi bene. Alle prossime. Cos'è, dai, ciao Tore, ce la ascolto alle prossimine. Capa di positivo, andate, buon carico, buon tutto. Sì, in definitiva, Massimiliano, buttare giù quella voce, piazzare le staffe, portare su quel discorso con l'altra. Sì, vabbè, ciao Tore. Ok, salutami a Gio Maria, sono senti. Ok, basta fare così. Butti giù quella, il capo puoi utilizzare quello che ha, che è nuovo. Non fai altro, sgancio l'antenna, metti l'altra e metti il palo telescopico così andate. Questo è perfetto. Ma infatti, ci vogliono scale per salire, non una parte, non all'altra. Sarà un casino. A sganciarla, a portarla lì già non è un problema. Perché al limite con la pure che c'ha su si può tagliare tranquillamente, con un bastone telescopico gli attacca la taglierina e la taglia con la taglierina, da giù sgancia i due bolloni, i quattro bolloni che è fissata, li mettono a toppe forate, quindi sicuro c'è che ne salta l'antenna dal coso e la faccio di in giù con la piastra e tutto, capito? Sì, no, io va bene, io voglio. Se non è un casino, perché se si sgancia dal tubo per arrivare al nato è un casino. Invece questa maniera qua va meglio, capito? Sì, va benissimo. Una volta che sganciate le bolloni, che li metti prima li lapici con l'auto perforato, in modo che non esca su, e non si sganci il tubo da quella L che è stata fissata con quella piastra. Fissate lì, poi la fa scendere piano piano verso giù, capito? Una volta che è giù si fa tutto quello che ce l'ha fatto. Sì, va bene. E dove la ancori però questa antenna? Dove la ancora? Con le staffe, non con le staffe grosse, ci ha preso due staffe di quelle belle robuste, capito? La mette un metro una dall'altro e va benissimo. E poi ci mette i tirati chiaramente. Però ascolta, Allora, dove tu parti con l'antenna va bene, li metti una staffa a 70 cm una dall'altro, va bene, però poi quando sali nell'altro piano di su, diciamo, dove lui sopra di lui c'ha una finestra, dove io ho legato quel tubo, lì ce ne vorrebbe, per essere un po' più fermo, ce ne vorrebbe un altro di staffa a bloccare quel tubo, capito? In definitiva devi fare un'altra cosa, ricordati che tu poi, diciamo, nel piano di su c'è il cornicione, quindi le staffe che piazzi sotto non le puoi mettere attaccate al muro, ti devi spostare almeno una ventina di centimetri di quelle, voglio, di quelle staffe che escono dal muro, una ventina di centimetri per salire dritto e arrivare nel cornicione. Quello l'hai visto, sì? Sì, da quanto sono nata lì quelle staffe? 20 centimetri. Eia, se non di più pure, sono quelle fatte in scatolato, quelle robuste sono, le ho prese da Fusaro, Massimiliano. E poi non ne mettiamo tasselli, mettiamo quei tirafondi col chimico. Sì, ho capito Natalia, però bisogna prendere la misura bene per passare proprio a filo di cornicione del piano di su, ti ricordi? Perché se poi sotto vai troppo attaccato al muro, poi quel tubo ti rimane troppo storto, mi hai capito? Per quello te lo sto dicendo. No, che non c'è il cornicione, non sporge dove piazzo l'antenna, sporge più avanti. Ah, ok, quindi stai cambiando posizione. No, sempre lì è, però il cornicione non c'è dove c'è il palo dell'antenna, capito? Ah, ok, tu lo stai mettendo, in poche parole, dove finisce il cornicione lo fai salire a fianco al cornicione, giusto? Ehi. Ho capito. E le staffe vogliono a metro e mezzo. Un geometra mi ha detto che vogliono un metro e venti una dall'altra e ne farà prima il barazzo di rubare. Non vogliono molto vicine, no? Vabbè, poi il palo non è che è neanche così pesante, capito? Almeno un metro devi mettere una dall'altra. Però se c'è la possibilità nel piano di su, già mi hai capito, se hai la possibilità ne avrei messo un altro lì di staffa. Così se riesci a metterla lì non c'è bisogno neanche di tiranti, mi hanno usato. Non c'è bisogno manco dei tiranti, vabbè, la comprerò un'altra, cosa vuoi ti dica? Tanto la scala me la dà uno e poi neanche una Franco, e quindi arrivo anche lì. E da decimetri chissà cara che mi vuole da. Quella che ho io mi sa che 8 metri, no, 2, 4, 6 metri o qualcosa. Quella è l'alluminio. Quello di tiranti. 6 metri arrivi al piano di sopra. Con altri 3 metri di palo poi sei già fuori dal barazzo. Infatti. Adesso è troppo bassa l'antenna, Massimiliano. Allora mi ricordo, però Natalia, ti ricordi che i pali erano quelli? Giustamente, e poi abilamente bisogna il radiale nata da chi su gozo e chi su terrazzino mi pare. Allora quando piazzo l'altro il radiale non viene più e nella varia rasura e infatti gappagappa. Va bene, dai signori, è stato bello, mi ho fatto una bella chiacchierata oggi, che ho tutti i giorni c'è un disturbo a Santiago 7-8 e quindi non fa manco a entrare in radio. Oggi non c'è questo disturbo e quindi mi ho fatto la chiacchierata. Va bene, ciao Natalino, ciao Franco e chi fosse in ascolto nel canale 10, dai, vi saluto, ciao. Ciao Massimiliano, alle prossime. Ciao Massimiliano, buon tutto, ciao agli ascolto alle prossime, buon carica. C'è la riascolta, vai Natalia. Ok, facciamo un bel lavoro fra e cavolo. No, questo qua è una cosa che fatta bene, almeno ha finito di soffrire. Cioè è un casino, non mi sento io più piedi lì. C'è quel pezzo di merda che avrebbe fatto salire, sarebbe stato risolto. E pur senza, se non mi fa entrare, già ne lascendo lo stesso. Ma infatti, capo di Dio, non c'è problema. La prima cosa che fermo piazziamo un ricciaffi a un metro e mezzo l'una dall'altra e poi te lo posso vedere i sistemi. La prendiamo un'altra, il staffa la mettiamo a tre, tanto con 6 metri arriviamo alla finestra di 49. E forse manco bisogno di dell'altra scala, c'è. Ah, meglio ce ne siano due di scala, un'altra lì. Con due scale siete tranquilli, perché ce la vuoi non ha fatto una all'altra, capito? Ve la tenga. Quando la porti giù, mi dà la tanella, se no è un casino. Già lo so. Poi due giù ne mettiamo di persone e due sopra la scala, così almeno la teniamo bene l'antenna. Anche perché se si rovescia quell'antenna, lo sai il danno che fa. Già lo so. Le paghi su che vivono i due bassoni Iossu. In quattro andare. Due sotto e due sopra. Due sulla scala che sgancia. Due sotto, poi lasciando piano piano si lampano arriva a terra, una volta arrivata a terra poi si può fare, si abbassa la testa un picco, si sfila tutto e si ripiazza l'altra, capito? E infatti la cucchiamo e abbassiamo il telescopico. Poi prendiamo la dinamite e la buttiamo a quel testa di merda che c'è sopra. Il tritolo ci vuole. A quella testa di valore. E così muori tritolando. Che sei veramente un che bastardo. Porca miseria. Non vuole il visto, non vuole il visto, capito? Non vuole il visto. E chi ci ha detto che cosa? Mi ti ricudo cazzo un pugno a bocca, cazzo ne ricavo tutti i denti che gli sono rimasti. Col trappano, col trappano, col tassellatore, non mi apre la bocca, gli ti tassellatore in bocca, capito? Chi sa batteria ricudo? No, quello è elettrico, e con la batteria si può scaricare. E ma mi pare sia più pesante che sua batteria. Comunque c'ho una massa io, in campagna, da 5 kg. Io vado una cesta con la mazza da 13 kg mi pare che sia in campagna. Io dico così e ci poco poco di una balata, cazzo. Guarda, meglio che non esca, perché se esce busca forte, lo dà così ancora in terra io. Una cosa, busca quelle pistole a spruzzo. Ci metti acqua e peperoncino al mezzo. No, prima ricudo e la poi rubiscio. No, no, lo spruzzo negli occhi con l'acqua e peperoncino. Sai che li vendono? Aspetta un attimo, fra. Sì. Sono ritornato. Basta alle 23 che c'è Gio Maria. Emmo. Lo conservo, lo pulisco disco, la polvere, vabbè, poco di polvere c'è. Niente, me lo conservo, mi uso l'altro. Ah, no, quindi come vi ha sentito da su? Ce l'avevi ancora l'apparecchio, no? Che apparecchio, boh? Giù la latte dolce, la pizza. Sì. Normalmente ma come ti arrivi da sopra? Perché ce n'era gente, perché ero lì oggi, non c'era un granché, non c'era, ho qualche chiaratina. Ma mi sa che con 747 me lo porto, non so come lo porto su, metto codice 5 e abbasso un po' i watt e va bene. Capito, oggi ho passato a fare una visita tu. Purtroppo, dovevo essere operato al naso, perché sono sempre mal di testa, dovuto da quello, capogiri, come si dice? Sabato devo salire a Itti e devo fare un attacco. Ma me lo fanno subito. Poi da lì devo portare la. Chiamare questa dottoressa, abbiamo fatto la visita, e devo portare il coso alla. Ma. E vabbè, il foglio, ho fatto la visita. E poi non lo so, insomma, mi fa fare un'impegnativa dal medico e mi faccio operare. Lo so. Purtroppo non è normale che ci avete tutti questi problemi lo. Scherzo. Se si deve fare si fa, e cosa fai? Ora. Fa da fare Andrew, da fare. Io stavo andando a pagamento, fate deciso, avevo chiesto 3.000 euro. Ah! Sì, si fanno pagare per queste operazioni. Ma l'avrei fatto, E te lo avrai 3.000 euro. Io ti avviaggio. Cazzo mi ha da te. Cazzo mi ha da me. Faccio a me, lo dico come mi le cose, me li conservo. Se uno può fare. Se uno vuole fare una cosa, conserva e via, come ho fatto per il dentista, no? Questi cose sono malissimo. Però grazie a Dio, mi offrono gratis, e ci rimane in sacco a me. E io vuoi tornare ai 2.500, 3.000 euro, da. O 3.500, se non me li dico, forse 3.500, e comunque lì siamo, da, con la cifra lì. Allora, sai cosa ti dico? Che preferisco stare bene e comprarmi le cose che andare a buttarci in salute. La salute è la prima cosa, tu. Poi le cose, le altre cose aspettano. Ma a me non. Quella fine non mi comprare. Un attimo devo comprare una macchinetta per me. Per gli spostamenti, portare a mamma, fare la spesa, senza chiedere a nessuno. Ma se lo vediamo. Là, anche una 600 mi basta. Dallo zuppo alla ipina, che? Ho detto dallo zuppo alla ipina. Certo. Sì, dallo zuppo alla ipina, e non si frutti. Vabbè, là. Ero piano. Se uno lavora una cosa, bisogna fare sacrifici. Ed è così. Quindi, per esempio, per avere una macchina, io avevo un lavoro fisso per campartela. E la macchina non vive d'aria, la macchina ha bisogno di tutto. Dall'olio, la benzina, poi quando c'è la sicurezza da pagare, il bollo, e poi ci sono a cambiare le gomme. Sembra così, una famiglia è una famiglia, è anche un'utilitaria a me. Ma c'è uno che ce l'ha grande la macchina, è così una famiglia. Va bene, una macchina vecchia, arriva bene, di là, un mio amici, di là però, non parlo di 1.000, quando inizia a avere 2.000 euro, 2.500 euro al mese, di stipendio. Ora, già lo so, già, vi volete dire sì, adesso già metto in balle la macchina, dopo con la benzina cara che è, ma a me molta gente fa ridere, cazzo, invece di... Cioè, di evitare, rimano anche per pisciare la usano. Ma se non è necessario, perché usi la macchina? Lo so, la macchina serve anche tu. Serve. Perché mamma può fare delle visite, ogni volta tocca chiamare il coso, il taxi, capito? Lo so. Tuo fratello non se n'è ne è bigliato. E va a tocca gli attiva a te. Che cosa? La macchina ha diritto, la devi prendere tu adesso. Cosa vuoi fare? Io mica aspetto a loro, no, non mi interessa, mica devo rendere conto a loro. No, nel senso che... se te la guidi, te la guidi in due, cioè ve la vendo la macchina. Lo so, io allora non comincio, ma comunque mi interessa, guarda, che non mi interessa più, ma non la cerco, la gente è migliore, ci credi? Volevo dipendere da me, non cercare nessuno, molte familiari, qui ci sono i primi, qui ci sono i primi, e voi aia. Già non so come funziona lui, ma che è il dai. E chi è? E chi è? Ma c'è qualcuno che vuole entrare? Ma chi sei, Mirko sei? Basso basso ti sento, basso basso. Non riesco a tirarti fuori. Lui, tu lo senti? No, c'è QRM stasera. Capo, non riusciamo a tirarti fuori, no. Sistemati bene l'antenna. Vabbè, come va laggiù? Sì, laggiù. Come va? Vabbè, per la corrida tu puoi. Andiamo. Il 26 si va. Sì, ma voi svagate un po', cambiate, fate altro. Ti stavo dicendo, ma laggiù come funziona? Alti e bassi o tutto cacchio, tutto normale? È sempre così. Cosa vuoi fare? Nulla tu, e cosa devo fare? Per stare male, cosa ci sto a fare? Vabbè. Ti stavo dicendo una cosa, la prossima settimana, ma non emettono articoli, c'è Luciano Galleri che fa il karaoke o no? No, mi come stava dicendo che karaoke non ne fa, però c'è un uomo non fa, che mi ricordi io, canta anche lui, si porta la chitarra e canta, però che mi ricordi io non fa il karaoke, lo fa di sabato però, No, perché se non per karaoke non vi vengo. Lo so, a me non me la faccio un cazzo di karaoke. Per il momento non mi interessa. Poi, per il fatto del Covid, è meglio cantare il meno possibile. Non si sa mai, altro. Sennò i contatti ci sono di nuovo. Affari di là. Comunque ho letto, c'è anche un ragazzo positivo al Covid, di 46 anni, ricoverato. Ma sicuramente non avrà Covid, non ti preoccupare. Lui no, oramai non vi credo, via nuda non credo via nuda. Perché ogni cosa sta più a fare il Covid, ma ne avremo finito cosa. Chissà cosa fa che c'è un bizzino. Lo so prendi il muri, poveraccio. Pensa che il dentista, dove sto andando io, cioè il mio dentista, ha il Covid. Io domani dovevo essere lì all'una e mezza per fare una visita e non c'è, perché è malato di Covid. Di cosa cura è malato? No, è malato di Covid, poi non lo so. Così mi ha detto la segretaria, così ti dico. Che non possiamo stare di tornare all'incubo. Comunque ci sono dei fattori strani di questa cosa qua, che piano piano stanno uscendo a galla. Non si busca con gli incubi, Olo. E che burri dagli un po' garetto che si cazzate. Non so cosa dirti. Non c'è da rischiare comunque. È meglio sempre tenere i piedi per terra. Poi chi non ci crede, a me non sono contrario, io ci credo. Io vi credo. Vabbè, non vi credi finché non ti vedo rubigli. E questo è. Lui abbiamo già parlato. La gamma figli che è meglio, vai. Ne abbiamo già parlato, io a certe cose non credo più niente. E per questa cosa, se no, se è vero che esiste, se non si contagia uno con uno, la pigliamo sempre in culo. E quindi dobbiamo pure venire lì da un cose, perché già c'è crisi, già sta succedendo un casino nero, non si sa se domani che c'è un casino alla dire, dobbiamo ancora continuare, c'è troppi problemi ci stanno nascendo, basta. Vabbè, perché gli hai fatti il vaccinato? Già l'ho fatti, già. Perché gli hai fatti? Se non ci credi. Gli ho fatti per mangiare. Vabbè, tu. Ma se gli hai fatti un motivo c'è, cioè, che credi anche che esiste il virus. Ma non ho mai creduto che esistesse veramente. Poi vabbè. Non lo so. Io ci credo. Tu che ha aperto tu che club il touch volevo dire sì non quanto io cazzo come una marmaccia di sudoku sono posti fatti per ragazzi, capito? Lo so, ma non per me. Niente, per cui fa il gambo che ho preso so che tu a te non ti piace, ma io a me già ci andavo prima in discoteca, adesso sono da parecchio tempo, ma già me la farò qualche scappatina, dai. Vabbè, tu sei più giovane, insomma, a me non interessa. Poi è caro che la moglie su corso. Già lo so, di Napoli va sì, I soldi ce li va bene in tasca, Non te lo usare, io sarei salito per la moglie, questa è soccare che la moglie. Che non lo so, ma allora facciamo come se andasse più manno. E pigliamo chi si gradi, chi si imbriaghiri, chi si pigliava a me prima. Non è che sia tanto salutare. Vabbè. Io solo il fine settimana, questa settimana mi sa poca roba. Che poi deve sabato la visita. E non voglio andare con un matricapo. Inteso l'ultima, che via Bogino sono fatto di cadere da urine di tutto. E va. Lei ha parlato io voce su stesso. Che si è parlato? Questo non lo so. Lo devo scoprire ancora. Però so che è successo. Lui battuto i carabinieri, sono intervenuti. Per carità, non è una domanda di vittissimo. Anda a rompere il coglione agli altri, a chi lavora. Già lo so, già. Per carità. Per carità, cioè, ti sta dando la possibilità di fare una cantata, dice sereno e tranquillo, andate a fare. Vai. Se te fa schifo. Schifo loro fate. Vabbè, comunque. Io vado nei posti dove mi conoscono. E stai tranquillo, la mia occasione non li fa, se il rubo super antico. Non è quel piccolo disguido, ma vabbè. È successo un vola però. Quello è successo mica adesso. Ho mentre la i video poi se ne sono andati, perciò ho detto non c'è stesso nuda di è guata un bicchiere, ho saltato una bottiglia, niente, zero completamente. Ecco male, il problema è che ti saranno tutto visti, sono problemi seri. Lo so. E così, no, io comunque amico lo sentivo, però zero. Cos'è meato? C'è altro, c'è un po' di cuore a me stasera. Che io lo intendia secondo te. Sicuramente lui mi ascolta, ci ascolta me a te, vabbè sono anche staccato. Già ascolta bene a me pure. Io ho 3 watt adesso. Chiappa. Sicuramente. Bisogna comportarsi bene, bisogna comportarsi bene. Certo, bisogna avere rispetto soprattutto. E comportarsi bene sì. E se non hai rispetto, e allora se puoi andare a fanculo, è cambiata, la gioventù è cambiata, la gente pensa solo a zuffarsi adesso, bene è affarrarsi. Come sono gli altri? È una occasione, distruggere il locale che poi una persona che ci lavora, ci campa, anche la famiglia. La gente comunque dovrebbe avere un po' più nel rispetto del prossimo, perché no, non va bene, cazzo, cioè, vogliamo fare la legge del più forte, ma per cosa devi fare la legge del più forte? A te si organizza già a mangiare e cose, tutti impari a mangiare la pizza e tutti i cazzo, cioè, cosa cazzo anda a fare rati? Ma cazzo di bido chiusi, devi battermi da amici, no? No, parlate, ma che tendenza è? Se sono malato di gambe e boh. Gaffa gaffa, eh. A me questi pidocchi mi fanno schifo. Tanto. E che ci vuoi fare? Gente di merda. Purtroppo. Ma l'hanno provato di mocciosi, si può dire. Ma lo sai che una persona l'ha fatta entrare. E quanti casini sotto di ara lì. Non ci sanno comportare, sono merda, sono. Lo so. Te lo so. Vabbè, con i giubbaletti e se ti vuoi. Se ne devo stare a casa. Per carità, guarda. Però quando eravamo ragazzini, mica ci stavano le circole. Che devono imparare l'educazione, devono imparare. Bene, bene, educazione, non ci deve la farà, ma perché ti deve fare gelosia di cosa? Dopo il cazzo c'è, cioè, ma per carità. Una più. Succede a Russia che una più. Ma più zoccola di lastra, Vabbè, hanno capito ragazzo, proprio voi si cude di gattaccia, figo. Ma è facile. No, sono proprio mucconosi, cazzo. Per carità Luca, ma guarda che, cioè, ogni giorno ce n'era una, da noi facevano di tutto, non rispettavano niente, ma perché non ve ne andate? Ma infatti, è così, però gridate. Certo, diventi mucconosa che... Avanti il break! Ciao, buonasera a tutti! Ciao Antone! Come va? Tutto bene? Quello che va bene, quello che va male, lo lasciamo andare male. Che cosa vuoi fare? Avanti Antone! Scappa, buonasera a Torello! A Torello a proposito! Ha già cambiato le membrane e ha già spogliato le trombende, donna. Vero? No, a me sta di sempre una cosa, tu carricheggi la benzina, no? Cioè, te la carricheggi dello stesso. Hai ripulito tanto che tratti, però non li raga mai benzina 30, perché da quelli guardate del tempo, oggi non li tratti, domani non li tratti, passa un mese, due, le membrane e poi va a finire che te le rovina, a parte che non andiamo manco via a salire la miscela fatta a 30, perché non si mischia come una volta, capito, come tira una volta, allora fate pure impressa e ingrippassi su coso. No, vabbè, vabbè, la miscela me la posso sempre che da... Non ne posso mai bucare, compreso, là. Cioè, io tratto un misurino, un bel niente si belli. Cioè, piglia, a giudizio pure vendi miscela con cose su cui frutta. E già andava, poi... Cioè, non sai che sta cosa. Cioè, tu la devi fare al 2%. Ci vuole quel tanto d'olio, 20 ml mi vuole, dozzo, ed anche io non può sgarrare, invece ti vedi buone negli, un bel dozzo, fuma, cosa, ce lo sono le buone di manco puro e greppano il dozzo, sembra niente bucacciona per la miscela a me, io no, io la posso a litro la posso. Sì, ma infatti, c'è una miscela si va di giusta, no? Una volta, tanti anni fa, è diversa anche la benzina, tutto anche gli oli. La vasica, la sa scendere per un mese, che questo ne giocato della buona che viaggiava. A vanno, con un chilo di benzina va, bisogna sempre fare la frecca, questo prodotto giusta, pure a chilo sintetico venivo di manco di cui si trattava prima, vanno la vecchia che sono concentrati, addirittura da che si può scettare per 5 litri, però non conviene, conviene comparare. un litro d'olio di miscela, anche di quello due tempi per la moto, per gli scooter, e te la fai tu, non c'è nessun problema, te la vai usci al 2% in vivi e non in bagno, un litro non è idratato, e mi vai un litro, due litri, mi vai due litri, punto, vai, sta benissimo. Allegro deve debunire, ammentati, sempre al minimo, non l'accelerare, l'errore che fa venire tutti, ti sta accelerando e pensa, tu l'acqua poi si ingrippa, oggi tu mai poi si ingrippa, però lasci al minimo, e ragazzi dopo proprio si sciuda un po' e vedi appunto, tu puoi remunire quanto vuoi, e l'erro dopo è sempre pronto quando lo tratti. Lo so, Guglia. Vedo a Pucaccione, quindi mi scende gol. No, no, io ho sempre giusto, grazie a Dio ce l'ho quanti anni, non ha giù, mai ingreppato, non ha giù. Mai ingreppato, perché poi io non guardo la spesa. Io si rotto goccia 20 euro, un pareggio. Però sono sicuro che qui sotto a me non mi crea problemi. Cioè non mi sincio dare un motore. Invece un biglietto piglia chi soldi di costa di 4 euro, 2 euro, andano a cazzo di rippare canto bene. No, no, no, no, non mi piace queste cose a me. Giusto, giusto, è così, purtroppo non tutti abbiamo mai testimoni. No, no, io no, io no, io a Bezza no. Ti posso assicurare che non ci avrei fasciato né moto zappa, né moto sega, né moto, mai, non mi è mai capitato di... A chi l'unica cosa che ha sempre fatto è Giuseppe comprato un libro di suoi e nove scioglie. Lo si va buono, basta, finito, non ce n'è, non ne scioglie. E in via è sempre guadagnato tu, a chi ci abbia di quella si piace, di quando qui ci non succede e diventa tutto quanto un problema. Diventa. Alla fine cos'è ripagnato? 3 o 4 euro, 5 euro, ma dopo diventa un grattacapo pure. Allora che si inciampa un motore non esegui più. No, non so cose che piacciono a me la bozza che da Manera, mi l'ha già comprato, l'ha già comprato all'Aci per l'ultima volta, e tanto goccia 20 euro, me l'ha tenuta, dammi l'uso io, e sono sicuro che è buono questo, la cosa è l'uso buono, cioè, infatti se ha... Non puzza come gli altri, come ti dico di Gussimi, cioè proprio non fa di fumo, non fa problema. Un po' di volte l'ha giubilato pure da Mariani, ha giubilato lo più caro, che si costava 15 euro, il Bardal, già lo conosci. Sì, il Bardal è uno dei più buoni che c'è comunque, Bardal, Motul, tutta roba professionale, non è modesta, a chi purtroppo va in buono modesta, e più di voci consigliani, metti do questo che più a buon prezzo, lì ci sono errori più umani che può fare uno, piglia lo buono e basta, dura di più, lubrificheggiano e fascia, e poi è tornato al discorso, non fa dei duviaguvi ti si attacca, ti fascia un naso. Beh, come ti la moto, si tratti lo zubono, lo bicione, cazzo ti fa un po' di chilometri, non ti fa dati problemi. Non ti dati problemi di nulla. Avanti lo. Ma infatti. È così, come tutte le cose, vabbè queste motosega, invece spugliatore, si prendiamo qui la benzina in meglio, e vedi che via la sassa, capito, si è caduto un malaramo. Quindi la bocchi, la buona in moto, per consumare chissà chi fa la regolatore e la beva a posto. La conservi e così. La sorprendi, quella da quando è? Da poco l'ho usata la moto, secondo me non partiva, non partiva in nessuna maniera, ti rendi? Se poi c'è la posta di là mi sono occupato pure male, a vedere. Poi cosa ho fatto? Ho preso un po' di benzina nella candela, ma si accettava. Alla fine ci ho buttato la marmitta. Ed anche io ci ho buttato un po' di benzina. Ma si accettava. Vabbè, la porto in moto, una bellezza, è battuta che era una bellezza. No Luca, ho sempre le membrane sporca. Anche se tu butti benzina dentro la marmitta o dal carburatore gli devi buttare, non dalla marmitta. Dal carburatore tu apri il filtro, no? Quindi appena di miscela deve essere ampio diretto. Una volta che lui si avvia, cosa gli succede? Quando dà anche se mette in moto per 30 secondi, 10 secondi, quello che è, fa rifunzionare le membrane, cosa che tu magari non riesci con la cordicella, perché è poco. Perché sicuramente magari non la deve, tu dal momento che dopo l'hai avviato, quelli lì si sono ribagnati di miscela, ha iniziato a pompare e poi ha continuato ad andare. Però ricordati, tu stacca il filtro, gli butti un po' di miscela dentro, tira e lui mette in moto. Quando si spegne, ne rimetti un altro po', tiri, lasciali l'aria a metà, non tutta aperta e tutta chiusa, a metà, lasciale e dentro rimane in moto, la salute è in moto, una volta che le membrane si muovono a pompa si ripiglia la balena. Ma la moto sapete che si vede, si praticamente viene all'interno che volatori. È un casino, la devi smontare tutta, cazzo, è un casino su cazzo di motosega. Se ho passato 20 kg dalla candela o dalla marmitta, è più facile, dai. Praticamente l'ho buttata dentro il pistone mio, non è che devo assare. Comunque partuta è funzionata, ha fatto il suo dovere, capito? Ha fatto il suo dovere, avanti a tu. Però io questa radio cutta, quando la bremolata mi si sono seccate le membrane, cioè, seccate. Radio cutta 30 robettoni a posto in moto, invece quando è cosa non pulire in moto, una cosa per la candela asciutta, adesso ci hanno addolissi, prum è andato tutto bene. La mazza ne fare a 18 euro me l'ha fatta in baga Mariane. Hanno aumentato, cuciavano i bocco, mi pare cuciavano i 6 euro o 7 euro, è un casino, diventando tutto quanto un problema. Il fiugavo del ricambio, il ricambio, tutto un casino, ancora non è finita, è peta, è peta. Vabbè, comunque, 18 euro speso bene a chi non c'è spugliatore, fa tutto. Lo dice spogliatore passuto, non ha più problemi. Sì, beh, ci mancherebbe altro. Qui c'è la prima cosa. È normale che se una cosa è dovremmo dare anche da, come ti hai detto prima, se con i pesi 20 euro bisogna pignare di punta e basta, intanto andai a pignare la medaglia, da poi ti si casina già tutto, no, su quello non c'è storia, io lo dicevi, cioè tu, che hanno bussato Russia, che hanno aumentato tutto, e aumentando di tutto praticamente. Già lo so, Guglia, lo mio caro gas, le batti non vanno più. E che sui San Semplicio che fate matte queste cose, non so se lo conosci, Ottone, una bombetta, due bestie, cioè una bombetta, e lui questo mi ha fatto pagare 8 euro, la mazza ne è varia. Sì, forse mi sono guardato un paio di voci a domandargli a che cosa. Chi sta in via Milano se dai Santa Trento in chi sono tra campagna. Mi pare che per la burra moglie in paraeto. No, non lo so così, voi sempre a Edo, ecco. Allora io quando mi sono andato forse per la moglie. Forse un cacano va forse. Sì, magari lui è più puro. Da voi no, anche prima mi capitava di sistemare qualcuno che ha capito che cosa poi basta, dai, no, ma lo sai una cosa, a chi ci ho fatto di tale, hanno detto a Rassassa che va a comprare uno spillo, va a comprare una cosa, mi crea problemi, c'è la canta di fuori, va a comprare gli ispirati, dai, o lavori o sei in giro, e quindi ha detto no, dai, no, non si può fare. Allora gli dico ai padroni, gli dico cosa devi fare, gli dico mi spedi più voi, e non c'è problema. Uno non lo so guava se li ha ancora bene, no, noi non avevamo nessuno, noi non avevamo né meccanico di moto, né meccanico di motozappo, di motoseghe, no, niente, vera, un usoro che va via, però la verità è va, non te lo so così se continuando a farlo, se abbiamo un lato, non lo so. Però il problema è che da noi non c'è niente a comparare, nulla, tutti, qualsiasi cosa che hai bisogno, una guarnizione, uno spillo, un pezzo di bombetta, una cosa, devi andare o andare ai punti da Velocio Sanna o se no devi andare a Mariani, capito? Oppure devi andare in Givi. diventa un problema, però diventa, cioè noi cusciati da bruciatore a venire in Ghivi, andare a comprare questa cosa, ti hai bruciato un manzano, due volte nei conti, ti hai comprato un pezzo di buon pezzo, ti hai comprato una cosa che costerà 5-10 euro, quello che è, tra assa, pigliarla, lo depo più bella, benzina che più buoni, fa che c'è riparazioni che andrò di pigliare. Non torna il conto, capito? Intanto che lasciate il bruciatore è pure diverso. Lo so buia, perché così un attimo di bianco, non c'ha pure i piccitti, no, l'ha già ciappato, mi dimmi. Eccoli qua, oggi vado da attaccatura. Già lo so, guia, e quando non fai nulla in Ghivi è un casino a me. È un casino davvero, ma cosa se non fai ricambi? Se non vado ai cambi toccata sempre no, in Sassari. Sì, ma tu figurati, fa una rettifica, un piccione, due fasci, qualsiasi cosa che ti serve, bene, qualsiasi cosa che ti serve è un problema. Senza vizi, l'ultima volta, uno di questi motocarri di questi a quattro ruote che so e dice che vanno su le misure, è stata una bella novella e ti la danno con un attimo, la Biagio non forniva manco più pezza, di arrangenti ci tutto, quella di casino mi sono caduto e da poi con questa cosa. Adesso beh, non avevano i pezzi. No, non hanno e non li faccio più. Adesso beh, non è auto, ma cosa era? Dici che su motocarro, cazzo vado, mi ha messo un momento il siglato, che su coso, comunque dice, va il motore Beciova, lo fa della Biagio, ribaltabile, è bene, una bella macchina, pure abbastanza robusta, non ti dico cose cusciate, ribezzi di chissà cosa, manco che a contenere il motore di Ferrari, e un problema mai è stato che non va bene più pezzi, tu cosa c'è ma fuori, da internet, a manca, adressa, un pezzo se di un luogo, un pezzo di là, e altre cose non si sono avuti proprio. I manicotti, va di non sagate, all'idea di arrangiabili, a roba, pigiali, valli, sagomali, non ce n'è, non ne va bene più. Ma non è possibile una cosa del genere, una moto italiana, gatto, non ce n'è. Telefono a due, vuoi prima la padrona, poi un'altra persona diventa rissata, e poi alla fine io mi sono occupato, ho fatto un corso che ha sempre il telefono, già me, mi dicevano no, li devi adattare, li prende, e ho capito che devi adattare, ma se li voglio originare, che sono sagomati, cazzo voglio che si punta e bacia, no, viene, niente da fare. Bravo, che se mi toccare, c'è un casino a contarle. Dimmi, chi si ha due denti? Che va nel motore, come ti dice, chi si non fa problema, e qualcuno che ci ha fatto la per 703, la peccare, chi si già? Sì, di quelli sì, di chi tu no, di chi si vanno in tutto, di chi si è proprio. Riprendi lui. Eia, si acciappa tutto. Sono cose, questi dieci spugliatori che prende su internet, non penso che i pezzi li trovi, E poi ho preso una motosega su internet. Un bijou, cazzo, veramente, guarda, tu pensi ad un tavolone di chissi grossi. Mi ha fatto per tagliare che non me la figlia. Solo che vabbè, non si andava a tagliare i rami, non per tagliare i tavoloni. E poi alla fine io l'ho preso per, insomma, se mi usciva qualche lavoretto e niente, poi l'ho venduta, anche di più l'ho venduta di quello che l'ho pagata, e ho pagata 89, 86 mi pare, non me la metto, vabbè, comunque la giornata 100 euro. Sì, no, ma bella che da internet compri anche roba buona, vedi, di motosiappe e di spogliatori, non è detto perché la prendi da internet non è buona, no? Ci sono delle marche che sono buone quante quelle che compriamo noi, anzi, avanti con un'altra cosa, cioè, occhio, quando compri la marca buona, guarda che ti sono figati contraffatti, se tu non conosci questi attrezzature, lo pacco di rubiglie, neanche con la marca lo prendi il pacco. No, beh, senza dubbio. Come si dice, praticamente, sì, vabbè, c'è, cioè, allora la motosega, quella Steel, così si chiama, la Steel, quella lì è buona, quella, vabbè, poi c'è la Husqvarna, l'altra non mi ricordo le marche. Sì, la stile è professionale, anche lo squarna, però, però la puoi trovare contraffatta. A me più volte me l'hanno portata quando lo riparavo prima, ed era tanta roba contraffatta. Ti devo dire la verità, sono andato a comprare il pistone, c'hanno una misura diversa di fascia e c'è un problema, qui non trovavo le membrane. E neanche io mi avvisavo che ho tanta roba contraffatta, è precisa, la Zaniva uguale. E poi abbiamo invato Kawasaki originale, non c'è Novezzoli, Kawasaki è fortissimo, Mitsubishi è fortissimo, perché le macchine professionali, quelli che usavano i cantonieri erano Mitsubishi. Con Mitsubishi quei modelli vecchi sono carraimati che si vogliono, ma veramente bene vanno. Invece da me sono stati contraffatti, poi infatti mi metti via, la giubbiglia di Mitsubishi è buono, è normale, contraffatto, è bevuta si giusto. Non serviva nulla, ma se compravi quella buona, anche la Meccano ne facevano due tipi. Quando prendevi quella originale era buona, quando prendevi quell'altra sottomarca, io mi dicevo, ma questi un pacco è pigliato. A che abbia la vena non si via nulla, difficoltà a partire, eccetera, non trovavi le membrane, perché c'erano delle cosettine diverse, e soprattutto le fasce, o il pistone, non riesci a staccarlo, o la misura dei paraurti, sono misuri sotto i canti strani, sono fatto un casino. Allora devi stare anche lì ad adattarli, a fare una zicatura. Sì, ma infatti. Ho ripreso un attimino, ho trovato un messaggio a un tipo per vedere se mi compravo questo tatuaggio, perciò per vedere quanto mi prende. Riprendi a tu. Ok. Però era giubbigliato, cioè veniva un becco, un motore cinese, cosa canta da neve? Io mi raggio già 7-8 anni ce l'ho uno. Quello che si mise il guasto, ma funziona bene però, e trovo anche i pezzi, è generico. Sì, è quello che ti sto dicendo, di quelle macchine lì, ce n'è, che sono buonissime, cavolo. Sì. Vabbè, a me maggio 26, che è quello mio, a maggio che sei proprio per 52, ma trovo che la cosa di misura è già tutto me. 52, si piglia 52 buono, viaggia, cavolo si viaggia. Babbo vedrà 52. È un po' forte me. Ti misura già tutto visto. Però la miseria va andare 4 visto. E che va il motore più umano. Sì. Puro chi si azzaino, chi si tipo una cosa. Chi si viaggia le voci, ma te si va un motore incredibile, Sì. Allora, un po' caldo di più la miscela però devi fare che più umano il motore. Però che ti trovava, No, la miscela, guarda, io Badi non l'ho già mai fatta Yusha sempre, appena aveva Giuseppe Buscia, appena di più. Ma chi gando secondo cosa si dà ieri, sicuramente non lo devi mai mandare sotto i forzi, la metà di non fa mai lo viro più lungo, di rubrivici, lo viro giusto. Però io trattavo un viro a 6 o a 8, lungo buro, quindi il motore lo scalda in una maniera incredibile, e poi lo denivo ori, ti porto l'importo, se buono il motore a disegno di Manzano non mi riuscivo la sera, a chi riuscivo un attimino solo papuni miscela dretto, ma la briga torre in moto e trova viaggiata agli arbusti grossi eccetera, e quindi il motore lo sollecitegge in una maniera incredibile. Se lui è lubrificato bene non gli fa un baffo, nulla, assolutamente. No, pure ne rimango appena di più, fa nuovo problema. Un bel niente mi ha detto, no, non devi trattare così. Ma cos'è, io lo posso andare un poco, e da me lo bacio appena. Devi trattare tipo così, devi accelerare, wow, secondo me è una cagata. Però se un motore è lubrificato bene, non ne può avere questi problemi. Mi ha dato un mollo, va su base a 2 minuti, da buon ripiglio. No, non entra nulla, non è che accelera e gemolla, quando tu sei tagliendi, chi vai, chi sai, momenti regolati lo taglio, no? Capito, che c'è la mano, lo tieni sempre a un passo, no? Fatti lui dare 3-4 acceleratori, taglia, non riesci a no, non arriva sul cazzo. Cioè, poi giustamente, quando la macchina è piccola, quando scalda un po', la devi lasciare raffreddare, per forza, se no esce il bidet. Un motore grosso non gli fa nulla. Già, non so, ogni tanto io mollo, infatti, non è che non posso andare sempre, così si barra, ogni tanto mollo, e poi riprendo, e vai. È il filo buono ci vuole, tu quando vai un filo buono a tagliare, e faccio l'affare. Infatti me lo compareggio buono, me la... Ghisù Giallagnetto dice che è buono. Beh. Io ne trattavo un tipo buono, un avivolo giallo, che era grosso, io trattavo quello grosso, sempre con vita da zaino, però, di scudere con la zaino. E poi ne trattavo un ugnello, sempre proprio un filo professionale, bruciava pure un bel, e Ghisù tagliava pure arbusti grossi, tagliava, pure roba grossa, la bruciava bene, cavolo, si tagliava. Beh. Invece il giallo, quando era un pugno grosso, quando non era, secondo me, fanno in scadenza, quando non era buono, lo tagliava a metà, sempre, non vera sciura. Dice, ma chissà che era roba grossa, no, lo devi consumare, ma non lo devi tagliare. Dai, così già, era pure un motore. E usava vinto un 52, usava vinto. Sì, se vaggio un 52, è un 43 Kawasaki. Io si sono manito, pure io mi voglio pigliare un 42, roba del genere, compreso. Non mi piace chissù che va, che sono manubrio, strano, questo non mi piace. Dici che è meglio, ma a me non mi piace. No, ma assolutamente no. Allora, ho trovato una tracolla, con un motore a tracolla, ti ripeto, del motore, ma già quando gli dai sui motori, che su cazzo. E trovo una dai padri, lo buono in moto, poi la picchina dai padri e viaggi. Oppure compareggi un despugliatore buono, quindi se pigli un 43 padri su Kawasaki, oppure pigli Honda, lì sono quattro tempi, ma lo sai quanto dagli abusi. Però un su Honda a quattro tempi, devi stare attento a non hanno pure la cabaterra, che se si grippa, capito? Ma se lo fai lavorare in piano per tagliare un treno lì su, e non consuma nulla, e poni solo benzina lì. Benzina, non miscela. Già, lo gioco. Ah, se ti capitella che ti farà cabaterra, si inciola il motore. Esatto, ripuscia l'uso e ti inciola, esatto. Devi stare attento a questa cosa, A chi mi voci non state inattenti, io ho più voci, mi è capitato che non ho controllato, ed era inciolato e non è di anni di qua. E io dico così, le voci a cabaterra che non pescava più l'uso e l'ha inciolato. E sciuga. E si fate di magamo di dinamo, non c'è buono a 400 euro, visto. Ma però c'è buono a 400. Magari due tempi è più robusto. Io preferisco il due tempi al quattro tempi, però il quattro tempi è bello perché non fuma, non fa, fa i subito, è un po' silenzioso. No, sa beh, è bello, una bella macchina, però può trattare. Ma se uno non è buono, che è per esempio trattenderlo, è meglio due tempi. Come ne pigliavi visto, pure io sono sempre d'accordo, a due tempi è migliore. Pure la moto è più bella al quattro tempi perché è più bella, no, non va niente da qua. Però se la punimo a livello da voi di resistenza di cose, due tempi e quattro tempi, due tempi se ne ha tutti, e non ci riusciamo in ghiri a girarla, di dire no, aereo di così. Ah beh, il quattro tempi in genere per fare viaggi è un po' meglio, No, parlo sempre di roba di fuoristrada, no? Così. Due tempi è un'altra cosa. Trova a vedere che vale maturare, noi torno due tempi, pure con i motori fuorivoggio, della vacca, e l'animacu, di manco rognosi, questi quattro tempi sono rognosi, consumano di manco, sono più silenziosi, tutto quello che vuoi, ma due tempi era un carro in maturità. Ogni volta che fa manutenzione a questi quattro tempi è un disastro, senza tutto quanto ha rotto delle balle dell'elettronica, tutte altre cose, invece i due tempi consumavano solo un po' in più e basta. Però tirasse, bacci e non ti ragava bene su loco. Sì, è che ero due tempi un po' diverso. quale c'è sempre il venire di manco. Però parlo di spogliatori, secondo me. Di bello, quattro tempi e cosa. Però si vede, si fa di che gol mai a tenere cappa o... Lo bisogna appena incinciolare il motore, non andrà più bene. Infatti, infatti. La comodità è solo che poni benzina, amico. E basta, tipo c'è un bisogno di benzina, buona, diventa e piace. Boh, basta, solo che si accorda. Ma del resto, secondo me a livello di battaglia è sempre meglio i due tempi. E infatti quello compro. Costa di manco ed è migliore.